Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quando corro, tutti i pensieri volano via. Superare gli altri è avere la forza. Superare se stessi è essere forti. Confucio. Questa ci aiuta a crescere, a superare i nostri limiti e a ben guardare possiamo considerarla come una metafora della nostra vita, ma non solo, perché corriamo per noi, ma possiamo anche correre per gli altri, per aiutare la ricerca. Buongiorno da Nicoletta, oggi andiamo di corsa, parliamo di corsa, tanti ospiti che ci accompagneranno lungo il nostro percorso, ma prima, come una sorta di riscaldamento, vi voglio presentare un'iniziativa speciale, Walk of Life, che letteralmente significa Il Cammino per la Ricerca, che è un'iniziativa di raccolta fondi organizzata da Teleton per portare sul territorio un forte messaggio di solidarietà e raccogliere naturalmente sempre più fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Alessandro Aiuti dell'Istituto Teleton per la terapia genica. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. La maratona di Teleton, professor Aiuti, esce dalla TV e continua nelle strade, perché la ricerca d'altronde non può fermarsi. Domenica le ultime due tappe conclusive che saranno a Milano e a Torino. Da sempre Teleton lavora per dare una risposta concreta a chi oggi combatte con una malattia genetica. Al mondo esistono tra le 6 e le 8 mila malattie genetiche, malattie che possono essere fortemente invalidanti, molte delle quali non hanno ancora una cura. Walk of Life è una seconda grande opportunità per far correre più veloce la ricerca su queste patologie? Possiamo presentarla così? Sì, è una bellissima iniziativa per far conoscere meglio Teleton, l'importanza che Teleton ha nel sostenere la ricerca in Italia, ma per tutto il mondo direi, perché i risultati che ottiene Teleton sono su pazienti che arrivano da tutto il mondo, sono risultati molto importanti. Di queste 8.000 malattie Teleton ne ha finanziate oltre 400 e su 23 il percorso già si sta avvicinando alla cura e già per alcune la cura è stata trovata. Quindi vogliamo ricordarle, professor Aiuti, questi successi della ricerca che è arrivata proprio al letto del paziente? Sì, ci sono malattie come la DASCID, che è una grave immunodeficienza primitiva, la sindrome di Biscott-Aldrich, che anche questa è una malattia del sangue, la leucodistrofia metacromatica, sono malattie in cui la terapia genica con le cellule staminali ematopoietiche si è dimostrata efficace, quindi i pazienti stanno meglio, possono fare una vita normale e questo è un grande risultato della ricerca italiana e della ricerca Teleton, perché senza la generosità degli italiani questo non sarebbe stato possibile. Quindi lavoriamo tutti insieme per la ricerca, facciamo come si dice rete, professore? È una rete di donatori, una rete dei volontari, dei ricercatori ed è una squadra, è un gioco di squadra importantissimo. A questa la ricerca lavorano tantissimi giovani, di cui sono orgoglioso, che sono orgoglioso di rappresentare oggi, giovani che danno la passione, la loro vita per portare avanti queste ricerche. Ed è quindi un grande gioco di squadra e quell'iniziativa di Teleton Walk of Life vuole rappresentare un po' questo camminare insieme per nuovi obiettivi. È molto importante poter arrivare a curare altre malattie genetiche, è molto importante continuare a sostenere la ricerca perché solo grazie a questo sostegno si potranno sconfiggere altre malattie. Quindi corriamo insieme a favore della ricerca. Io ricordo che le iscrizioni si chiudono il 27, per cui avete tempo di pensarci e di allenarvi. Trovate tutte le indicazioni sul sito Walk of Life e, professor Aiuti, anche lei correrà. E anzi, lei è diventato runner proprio per l'amore, la passione per la ricerca. Sì, perché l'anno scorso Teleton mi ha invitato a partecipare, io per non fare brutta figura ho iniziato ad allenarmi e da qui non ho più smesso, anche perché la corsa è un po' simile anche alla ricerca, lo sfidarsi verso nuovi traguardi, ci vuole preparazione, allenamento, costanza, perché senza di quella non si ottengono risultati e poi anche se è vero che la corsa è uno sport individuale, correre insieme dà più forza, dà più energie e quindi È un cammino che non si interromperà più e mi farà molto piacere essere insieme a tanti altri giovani, a tutte le persone che vorranno venire a Milano a correre domenica mattina. Si sente in forma, professore? Beh, mi sto allenando da un po' per non fare brutta figura e per sfidare anche i miei giovani ricercatori e colleghi, e quindi speriamo di fare una bella corsa, ma speriamo soprattutto che ci sia tantissima gente per sostenere Telethon. Grazie professor Aiuti, buona giornata e allora ci vediamo a Milano. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Mille. Arrivederci. Di questi Giochi Olimpici, la maratona, una delle gare simbolo dei Giochi Olimpici italiana, va a Stefano Baldini. 42, che poi sono anche un po' di un pezzetto in più. Eh sì, e 195. Eccolo, vede che eccolo qua il nostro dottor Melegatti, medico sportivo primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Sì, 42 è un pezzetto. È un pezzettino, buongiorno Nicoletta. La maratona è una corsa che è diventata estremamente di moda e tantissimi sono spinti a farla con grande entusiasmo. Questo ci piace molto, è un fatto positivo perché correre fa davvero bene al corpo, alla mente, eccetera, ma ci sono... C'è un ma, tutti pazzi per la maratona, però la maratona è una cosa seria. La maratona non è come fare jogging, quindi la prima differenziazione è tra le persone che fanno jogging e le persone che corrono, e i runner. La maratona è per i runner, o meglio, e anche per chi inizia e per chi vuole spingersi oltre e quindi passare dalle 2-3 volte alla settimana la mezz'ora di corsa a correre ben di più e quindi a preparare la maratona. Ma la maratona, come dicevo, è una cosa seria perché ha dei risvolti che possono essere anche non piacevoli, può provocare problemi, come vedremo, e quindi va affrontata in modo molto, direi, scientifico. Sì. E soprattutto con una grande attenzione, e bisogna programmarla. Alcuni sono fatti per correre più di altri, come a dire che anche il fisico aiuta. Certamente c'è una predisposizione alla corsa. In effetti il nostro organismo è un organismo predisposto alla corsa, sì, in generale, però ci sono persone più flessibili, più magre, più veloci, più agili, in confronto ad altre persone che sono lontane dal poter praticare la corsa in modo... Ad esempio, che il fisico, dove noi lo guardi, lei lo guarda e dice: questo maratoneta non diventerà mai. Qual è? Beh, insomma, il classico cinquantenne sedentario che più che altro sta in macchina e alla scrivania e davanti alla televisione, con un po' di pancia, con il piede piatto, col ginocchio valgo, e quindi è un po' difficile che questa persona possa cimentarsi nella corsa. È chiaro che non si può negare neanche a questa persona, certo, di fare un'attività aerobica, però deve essere scelta con criterio. Ecco, il piede piatto è un... piede piatto non è di per sé, certo, è un piccolo limite, non è certo una controindicazione assoluta, ma è un piccolo limite. È un aspetto che va valutato e quindi va preso in considerazione quando si parla di jogging o di corsa. Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. E voi di quali immagini, parole, pensieri vi servireste per descrivere quella passione che vi spinge ad alzarvi dalla poltrona, indossare calzoncini e scarpette e a misurarvi con voi stessi? La maratona, tra l'altro, piace sempre di più, sta conquistando anche le donne. Una di queste la conosciamo bene, è la nostra Tite Togni, insegnante di yoga certificata Iyengar, che è in linea con noi. Buongiorno Tite, ciao, benvenuta. Namaskar, buongiorno. Senti, ma chi glielo fa fare, si chiedono i patite dalla poltrona, a mettere ste scarpette, iniziare a correre col bello e il cattivo tempo, in piena forma, o un po' acciaccati, di buon umore, un po' Tite. Lo fa che, niente, subito dopo, pochi minuti, una trentina di minuti, tutto passa e c'è una sensazione di benessere assolutamente chimica, e quindi certa, misurabile. E si sente dopo quanti minuti o quante corse? Ma guarda, scientificamente ho letto ultimamente, ed è vero, basta sentirlo, superati i 30 minuti. Quindi non c'è bisogno di ripetere, di continuare, si sente già dopo 30 minuti. Il dottor Melegatti conferma, 30 certo. minuti che non devono essere però tutti di corsa, possiamo alternarli certo. con una camminata veloce, naturalmente, vero? Naturalmente sì, dipende un po' dagli obiettivi che uno si prefigge e dallo scopo della corsa. Proviamo a dare uno schema di corsa per chi non ha mai iniziato. E poi magari ci risentiamo dopo quanto tempo? 15 giorni per fare un bilancio? Magari anche un po' più di 15 giorni, io direi magari dopo un paio di mesi. Un paio di mesi, si inizia. Tite, tu che cosa consigli? Ma guarda, io consiglio, e vedo che tutti sono molto contenti, una cosa che non ho certo inventato io, ma in America, ed è l'alternare minuti di corsa con minuti di camminata lesta. E quindi iniziare pure con 5 minuti di camminata e poi anche solo un minuto di corsetta, però ripetere questo per 30 minuti, vedere come si sta il giorno dopo e poi il giorno dopo ancora, o ripetere se si è sentito sui muscoli, quindi se il carico era abbastanza, ecco, oppure procedere, fare 5 minuti di camminata e 2 di corsa. E così avanti. E così avanti fino a che 5 minuti di camminata e 5 minuti di corsa sono uguali, e poi diminuire sempre di più la camminata. A favore della corsa, dottor Melegatti, lei è d'accordo? Assolutamente sì, senza dimenticare però di osservare un giorno di riposo dopo l'attività. Lasciare sempre un giorno di scarico e di recupero, quindi fare questa attività a giorni alterni. Tite, quindi volevo chiederti, però per le persone che corrono, noi adesso abbiamo suggerito questo schema per invogliare il sedentario a misurarsi, ma per le persone che corrono e corrono con una certa regolarità, con una certa frequenza, possono presentarsi alcuni problemi, e anche lì gli uomini e le donne sono assolutamente diversi, ciascun sesso ha ciascun un punto debole. Quello degli uomini, ad esempio, del maratoneta maschio? Ma guarda, La corsa è lo sport più democratico che esista, però certo l'uomo generalmente, proprio per questioni ormonali, ha i muscoli più sviluppati, quindi si presenta alla corsa con i muscoli più sviluppati della donna, e quindi vuol dire che ha più bisogno, siccome la corsa è un'attività che li potenzia, sti muscoli, sì. C'è bisogno di contrastare con un'attività di allungamento poi, prima e dopo. E quindi l'uomo, diciamo, ha i quadricipiti senz'altro più sviluppati, subito più sviluppati, ancora prima di correre, della donna. E sì. questo può remare contro? Può remare contro, perché nella corsa si accorciano sempre di più, si tendono sempre di più, certo. E ci sono delle ripercussioni su tutto il corpo. Quindi invece la donna ha i quadricipiti, ha il problema opposto, ha i quadricipiti che non sono sufficientemente, spesso non sono sufficientemente sviluppati nella gamba per poi correre in salute. E quindi bisogna lavorare su questi. Esatto, e quindi ho pensato a due posizioni diverse. Proviamo a dire il nome della posizione per il maschio runner e il nome della posizione per la femmina certo. runner. Tite, allora, per l'uomo può essere fatta anche subito prima della corsa, che ha rigidità nelle articolazioni basse e quadricipiti già molto sviluppati, quindi ha bisogno anche di allungare, ma l'asana, la posizione della ghirlanda, praticamente stare accovacciati in equilibrio con tutta la pianta del piede per terra. Questa ghirlanda mi piace. Mentre per le donne che cosa abbiamo scelto? L'ulivo? No, perché questo ve l'avevo già detto, l'orchidea? Tutti i giorni. La ghirlanda, la posizione della seggiola yogica. Sì, per la donna. Per sviluppare i quadricipiti mentre sto nella posizione respiro. Tite, io so che tanto tu devi correre, allora ti saluto e ci ritroviamo presto. Grazie a Tite e Toni. Presto. Ugo da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Eccola. Io volevo solo dire questo, io sono un podista e mi piace fare le maratone e via dicendo. Vorrei semplicemente dire che il fatto di poter andare a correre probabilmente fa molto bene allo spirito, perché io faccio le maratone e correre 42 km e qualche centinaio di metri non è uno scherzo, nemmeno doverlo fare a piedi semplicemente senza correre. Quindi questo permette di scaricare sicuramente lo stress. Io perlomeno racconto quella che è la mia personale corsa in realtà. Certo. E quindi permette di scaricare lo stress e tra l'altro permette, io vedo persone che vengono a correre che hanno sicuramente più di 80 anni e che comunque vengono lo stesso nello spirito di gruppo per stare in allegria e socializzare. Quindi, allora Ugo, a conferma di quello che lei ci racconta, la ricerca che abbiamo tratto da Somensana, che aggiunge ulteriormente conferme a quanto già ci ha raccontato Ugo da Firenze. Una ricerca condotta all'Università dell'Illinois dimostra che l'esercizio fisico, in particolare quello aerobico, come la corsa, stimola i lobi frontali, la sede delle funzioni esecutive. È qui che si prendono decisioni, si pianificano le varie attività, si ragiona. La risonanza magnetica ha confermato che l'attività fisica aumenta il flusso sanguigno in queste regioni, migliora la capacità di concentrazione, aiuta cioè a ignorare le informazioni distraenti quando si esegue un compito. Dottor Melegatti, c'è dell'altro quindi? Assolutamente sì, non è solo un problema legato al cervello, ma non solo la testa, ci guadagna l'intero organismo. La corsa è una straordinaria attività che, se fatta in sicurezza e quindi se fatta preparandosi a farla, dà dei vantaggi fantastici: abbassa la pressione del sangue, migliora la flessibilità e la forza muscolare, migliora il nostro sistema immunitario. Questo è veramente importante perché ci permette di affrontare malattie anche serie da un punto di partenza migliore, e poi tanti altri vantaggi. L'umore agisce molto sull'umore, la capacità di concentrazione, è vero quello che è stato riportato dalla ricerca all'Università di Illinois. E, poi naturalmente è vero anche il fatto che dà una certa dipendenza alla corsa, non dimentichiamo che può diventare anche una mania, non solo una grande passione. Assolutamente sì. La dipendenza della corsa è perché si ha un oggettivo benessere quando si corre, questo per una rapporto di endorfine, come infatti sappiamo. I runner tendono anche a trascurare, pur di correre, alcuni segnali che il loro corpo manda, certamente. Piccoli dolorini, perché l'idea di andare dal medico che dica lei per un po' deve fermarsi. È intollerabile per uno che corre 70, 80, 90 km alla settimana, perché i runner questo fanno. Quindi ritorno alla grande differenza di cui parlavamo all'inizio: ci sono i jogger e i runner. Allora, i runner sono quelli che corrono in maniera scientifica, che si allenano per raggiungere un obiettivo e quindi hanno una programmazione molto precisa. Sì. Mentre chi fa jogging lo fa per un benessere generale, per mantenere il peso corporeo e per avere comunque lo stesso dei grandi vantaggi. Ecco, il runner è una cosa diversa. E hanno due approcci diversi alla corsa. Totalmente. E anche forse sono due profili psicologici differenti, no? Assolutamente sì, anche se il jogger può diventare runner, perché molti runner hanno cominciato un po' così per spirito di emulazione con gli amici, per stare in compagnia, per perdere peso, per migliorare la propria capacità cardiovascolare, per migliorare, per abbassare un po' i livelli di pressione arteriosa, e poi si sono fatti prendere in modo positivo da questo demone della corsa e hanno iniziato il loro percorso. Si sono affidati a degli esperti che hanno consigliato loro tabelle di allenamento. Questo è un consiglio che possiamo dare: nel passaggio non il fai da te, ma assolutamente sconsigliato, e può essere davvero dannoso. Ma soprattutto ricordarsi bene di fare una valutazione dal medico, perché il medico deve valutare prima di tutto l'apparato cardiovascolare e poi l'apparato locomotore. Volevo sapere se correre sul posto in una stanza quando non si può uscire può comunque fare bene, ci scrive Sandro. Un po' noioso però. Beh, non è solo, no? È frustrante, è noioso, e poi direi di no, secondo me la biomeccanica della corsa sul posto è totalmente diversa dalla biomeccanica della corsa per strada, perché non c'è avanzamento, è tutto diverso. Mentre sul tapirulan? Certamente sì, dagli stessi vantaggi della corsa, io lo considero un po' anche quello, insomma. Perché bisogna anche divertirsi, o no? Sì. E adesso di corsa andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi di nuovo qui insieme fino alle 12, vi aspetto, intanto continuate ad allenarvi e a riscaldarvi. Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti. E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. E così, lei ha corso e basta. Già. Vogliamo ricordare qualche segnale che possono, così, può avere il runner e che tendenzialmente fa finta di non ascoltare proprio per evitare di, sì, farsi di mettere essere seduto? Beh, intanto qualche piccolo problema dell'apparato locomotore. Si parla di dolori alla pianta del piede, dolori al tendine d'Achille, dolore alle ginocchia, dolore alla schiena. Ci sono vari distretti che possono essere interessati. E allora ogni piccolo segnale, proprio per evitare soste più lunghe, è bene fermarsi e farsi controllare. Quindi dolori, ma non solo, ci sono altri nemici del maratoneta. Dal dizionario ragionato della corsa abbiamo il suo autore in linea, Mario Setragno. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Me ne dica uno di... Lei è un runner, vero? Io sono il classico cinquantenne sedentario con il piede piatto a cui faceva riferimento il dottor Delegati poco fa. Anch'io preda del demone della corsa, sono partito da quello stato in cui le dicevo, mi trovavo e sono diventato anch'io un maratoneta. E ho avuto il piacere di cogliere alcuni spunti ironici di questo splendido sport, che ho appunto inserito in questo dizionario ragionato della corsa, dove ho anche individuato i nemici del runner. Fra i nemici del runner c'è il boxer. Il boxer è il peggior nemico dell'uomo runner, sia inteso come cane che come capo di biancheria intima, rappresenta comunque una seria minaccia. Il primo insegue il podista, tentando di morderlo, forse anche soltanto per giocare. Il secondo invece non garantisce l'ordine costituito. Si è fortunati in entrambi i casi se non si è troppo lontani da casa. Quindi attenzione ai boxer. Attenzione ai boxer, è un errore che si commette in genere una volta sola alla prima uscita. Devo dire che la prima volta che sono venuta a Milano, entro in metropolitana e vedo tutti questi che correvano. Mi sono messa a correre pure io. Ho detto, chissà dove vanno, no? Loro corrono perché devono prendere la metropolitana che passa proprio in quel momento. E se per caso gli si chiude il vagone in faccia, come se l'avessero perso per tutta la vita. Che io dico, milanese, hai ragione, in effetti a questo punto la giornata è compromessa. Perché ti slitta tutto in 3 minuti e mezzo. Peccato, proprio oggi che avevi deciso di fare l'amore con tua moglie. Avvocato Setragno è ancora con noi. Buongiorno. Ecco, abbiamo individuato il boxer come nemico del runner. Ha pensato ad un nemico della donna runner? Un nemico della donna runner può essere il fiatone che colpisce il neofita quando inizia a correre. Secondo me è meglio avere il fiato corto e le gambe pesanti piuttosto che le gambe corte e il fiato pesante. Questa dovrebbe essere una regola per tutti i runner. Però ho cercato di classificare il fiatone in varie categorie. Sì. C'è il fiatone basico, che è quello riscontrabile anche in soggetti mediamente allenati, in tratti impegnativi, in salita o nelle volate. Sì. Poi c'è il rantolone similasmatico, che è l'incubo per tutti i corridori delle garette domenicali, perché avere nelle immediate vicinanze un rantolone, come l'ho definito, determina uno stato di ansia che cresce con il passare dei chilometri. Sembra di fare una mezza maratona nella sala operatoria di IAR, medici in prima linea. Poi c'è il grado successivo, che l'affanno da maniaco. Non so se avete presente Hannibal the Cannibal nel Silenzio degli Innocenti, quando c'è, sì, la famosa scena del visore notturno. Ecco, c'è gente che in gara, quando corre, mette quel tipo di respiro. Poi l'ultima categoria, che è una variante degli altri è la cosiddetta fiatella, che non rientra a pieno titolo nelle categorie di fiatone, ma contraddistingue alcuni podisti piemontesi amanti della bagna cauda. Che adesso avviene il tempo. Fra poco sarà il tempo della bagna cauda da queste parti. Forse proprio grazie a questi podisti e alla loro fiatella che il giornalismo sportivo ha coniato l'espressione l'atleta fa il vuoto attorno a sé. Grazie avvocato Setragno per essere stato con noi. Noi restiamo a Milano perché c'è Claudio, poi abbiamo Paola da Padova e Daniela da Roma. Claudio, benvenuto. Buongiorno a tutti quanti. E volevo testimoniare, ecco, io ero un runner da 60-70 km la settimana e all'età di 25-26 anni fino ai 35, dopo sono venuti avanti gli anni all'età di 40. Adesso che fa? Ho fatto un po' di retromarcia, nel senso corro sempre durante la settimana 3-4 volte facendo 6-7 km, mantengo il peso e mi permetto anche la pizza in più. Quindi è una grande soddisfazione, ho portato a correre un amico mio che era in sovrappeso e adesso senza dieta, come per miracolo. Perfetto. Il ragazzo è diventato anche ragazzo. Grazie Claudio. Daniela da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo soltanto chiedere perché vengono i crampi e cosa succede nel nostro corpo quando vengono. Grazie Daniela e poi andiamo anche a Paola da Padova. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta. Ecco, io ho 49 anni, corro dall'età di 25, anzi ho iniziato a camminare dall'età di 25 perché mi è sorto un problema di ernia del disco e qualcuno ha detto: signora, lei è troppo giovane per essere operata. Sì. Ho iniziato a camminare e poi adesso sostanzialmente faccio circa 20 km al giorno di corsa. Sì. Però devo dire una cosa, sicuramente ho sviluppato e potenziato i muscoli delle gambe a tutto discapito naturalmente dei muscoli delle braccia. Da 2 anni mi è sorto un grossissimo problema, che è quello della pubalgia. Io non appena ho sentito questo grandissimo dolore, naturalmente mi sono fermata. Quando mi è capitato non riuscivo neanche più a tornare indietro, insomma quel giorno lo ricordo veramente un po' come così. Sì, non lo dimentica più. Perfetto, una sola cosa, il medico mi disse Paola, dobbiamo un attimo però chiudere, lei è una runner, quindi sa che si va di corsa anche per radio. Cosa posso fare per la mia pubalgia oltre alle perfetto tensioni? Grazie. Allora, crampi e pubalgia. Bene, i crampi sono deve. I crampi sono un segnale di qualcosa che non va a livello del nostro corpo, in particolare dei muscoli. Allora, in genere possono essere provocati da una scarsa idratazione oppure una carenza idroelettrolitica, quindi elettrolitiche mancano, perdita di sali che non vengono reintegrati, ed è molto facile che questo avvenga soprattutto nei climi caldi, soprattutto quando si corre con tasso di umidità importante e al caldo, e c'è gente che ha la tendenza a non reidratarsi durante quindi la corsa, bevete, perché lo trova difficile. Bevete e reidratatevi con integratori. Con integratori. Dall'esperienza di Paola mi viene in mente che un dolore improvviso a livello inguinale deve far rizzare le orecchie, le antenne, perché può essere uno dei problemi più fastidiosi del runner, cioè una frattura da stress. E quindi il dolore a livello della zona pubalgica può nascondere una piccola fratturina dell'osso pubico che va affrontata con grande attenzione, mentre per quanto riguarda la pubalgia in generale può essere causata da squilibri muscolari, in genere lo è causata da squilibri muscolari, quindi muscoli intorno al nostro bacino che sono o troppo deboli o troppo tesi. Un altro problema grosso dei runner è la fascite, vero? Assolutamente, è uno dei problemi legati proprio alla conformazione del piede e legati anche al numero di chilometri corsi, alla scarpa che si usa, alle tensioni muscolari dell'apparato locomotore, degli arti inferiori. Ci sono tantissimi aspetti da prendere in considerazione nella fascite e comunque è uno dei problemi seri, perché può tenere il runner seduto, bloccato per qualche si manifesta qualche proprio con questa con dolore questo sotto dolore la pianta sotto la pianta piede, che prima si sembra manifesta sembra una spina prima, vede che so perfetto, si manifesta durante la corsa ma poi anche camminando. E quindi diamo allora al runner in ascolto che oggi, allenandosi, ha sentito una spina nella pianta del piede, controlli le calze, ma se tutto è a posto, certo. Ecco, si ferma, mette il ghiaccio. Mette la borsa del ghiaccio e poi, se la cosa persiste, consulti un... Ecco. Uno specialista. Assolutamente. Grazie dottor Melegatti. Adesso andiamo a sentire cosa succede su strade e autostrade e poi di nuovo qui, perché per correre bisogna avere anche il carburante giusto, soprattutto quando ci si allena, insomma, ci si allena anche a tavola. Essere e benessere. E siamo tornati insieme oggi, andiamo di corsa, ma per correre bene, lo sappiamo, ve lo avevo anche anticipato, bisogna avere il carburante giusto. Noi lo scegliamo, così non sbagliamo, insieme al dottor Filippo Ongaro, che è in linea con noi, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottor Ongaro, iniziamo dalla domanda tormentone che si legge di frequente anche nei forum dei runner. Si corre a pancia piena o a pancia vuota? Sì, è una domanda abbastanza ricorrente, in realtà forse anche perché la risposta non è scontata, nel senso che vale tutte e due, cioè se si volesse correre per perdere peso, per esempio, una corsa a intensità moderata alla mattina a digiuno può essere sicuramente un buon metodo, perché il corpo, non avendo zuccheri a cui attingere, perché siamo stati a digiuno per tutta la notte, brucerà più grassi. Viceversa però, se la corsa invece ha un obiettivo di prestazione, quindi ci si allena un po' più seriamente, l'obiettivo non è la perdita di peso, sicuramente correre a digiuno non è corretto. Non è neanche corretto correre con la pancia piena, bisogna mangiare e lasciare il tempo al sistema gastrointestinale di digerire e assorbire gli alimenti. Questo anche perché se corriamo mentre la digestione è ancora attiva, molto sangue che potrebbe essere utilizzato per la prestazione dei nostri muscoli sarà invece impegnato ad aiutare il tratto gastrointestinale a digerire, e quindi c'è una sorta di conflitto che non funziona nella maniera corretta. In generale si dice di lasciar passare almeno un paio d'ore tra il pasto e un allenamento di una certa intensità. Il pasto chiaramente deve dare un contributo energetico da utilizzare appunto nell'allenamento successivo. Ecco, infatti il pasto deve dare un contributo energetico. Come possiamo combinare questo pasto? Ma diciamo che in linea generale va ricordato che anche qui ci sono due aspetti. Un aspetto che riguarda la salute generale di chi fa uno sport, che non è necessariamente esattamente identico all'aspetto che riguarda la prestazione. Quindi per la salute generale valgono, come dire, i criteri per tutti, quindi bisogna abbondare in verdura. Il nostro frutta. Piatto ongaro, il nostro piatto di mangia con me, la ripetiamo, esatto. Mi piace molto. Sì, diciamo che questo l'abbiamo detto tante volte, ma insomma questo piatto ideale unico diviso grosso modo il 50% in verdure e i rimanenti 25% in cereali al 100% integrali ricchi di fibra e poi proteine a rotazione, tra proteine di origine animale per chi le mangia, proteine vegetali come i legumi, eccetera. Uovo. Sì, esatto. Questa è una buona impostazione di base. Qua non sbagliamo. Non sbagliamo, e il corridore ovviamente deve anche pensare alla propria salute generica e non soltanto alla prestazione di corsa. Però è vero che per la prestazione bisogna un pochino adeguarla a questa cosa. Allora, per esempio, in uno sport di lunga durata, come può essere in genere la corsa, almeno che non sia una corsa, uno sprint, una corsa di velocità, i carboidrati hanno oggettivamente un ruolo molto importante, perché devono fornire proprio l'energia al muscolo per potersi contrarre con continuità. Quindi i cereali in questo caso acquisiscono un ruolo un pochino più importante. Io suggerisco comunque di preferire i carboidrati di tipo integrale, sempre per quel famoso discorso che non creano grandi sbalzi, sì, nella glicemia. Ma ricordiamo anche ai corridori, che spesso si dimenticano questo aspetto, che i muscoli sono fatti di proteine, quindi anche le proteine hanno un ruolo molto importante per permettere al muscolo di recuperare dal carico di lavoro svolto. Dottor Ongaro, a volte chi corre avverte dei segnali che possono essere una spia di un allenamento sportivo non adeguato, ma possono anche tradire delle carenze nutrizionali o degli errori nutrizionali. Vogliamo individuarne alcuni, magari più frequenti? Beh, uno molto frequente ovviamente sono i crampi, che possono essere legati a fenomeni di disidratazione, possono essere legati a carenze di alcuni nutrienti come il potassio, il magnesio e il sodio. In questo caso ovviamente importante, assolutamente importante è il bere e il mangiare una quantità elevata di frutta e di verdura, che sono il metodo migliore per rimpiazzare queste sostanze che magari vengono a mancare. Sì. Un altro fenomeno molto frequente, devo dire, è la perdita di peso questo rientra un po' in quello che stavo dicendo prima. Attenzione che la perdita di peso non sia una perdita di muscoli. Questo significa, se accade, che non c'è abbastanza recupero e forse che l'introito di proteine non è adeguato a reggere quei carichi di lavoro a cui ci si espone. Legato a questo, un altro segnale abbastanza frequente è una stanchezza importante. La stanchezza, ovviamente dopo un'attività fisica intensa è ovvio che ci sia, però bisogna recuperare. All'allenamento successivo bisogna tornare ad avere una buona carica energetica. Se la stanchezza è eccessiva può essere un fenomeno di sovraallenamento, quindi va ovviamente corretto il carico di lavoro e la tipologia di allenamento, ma può essere anche che mangiamo male, cioè può essere che ci alleniamo bene ma non diamo all'organismo la benzina che necessita per recuperare. Insomma, non ci alleniamo adeguatamente a tavola. A tavola. Dottor Ongaro, tra i problemi che possono insorgere in chi si allena è non riuscire ad aumentare le performance, ad andare più veloce. Beh, allora, premesso che anche qua la prestazione fisica è molto legata alla tipologia di allenamento che si svolge, quindi occorre comprendere che l'allenamento è una cosa sofisticata, alle volte bisogna farsi dare una mano anche da un preparatore atletico, da un personal trainer, in modo tale che il carico di lavoro sia aggiustato correttamente per ottenere quell'obiettivo. Poi certo, l'alimentazione anche qui conta moltissimo, nel senso che in particolare se l'ambizione è correre più veloce, è chiaro che per correre più veloce ci vuole un'intensità maggiore e ci vuole un metabolismo che ha la capacità di reggere quell'intensità. Da questo ovviamente deriva moltissima la scelta alimentare, quindi se io ho mangiato in un certo modo potrò tollerare delle velocità di un certo tipo, cosa che non riesco a fare se non ho mangiato in quel modo specifico. I carboidrati, torno a dirlo, in questo caso, anche se come è noto non sono un amante dei carboidrati in senso lato, però in questo caso va detto che chiaramente forniscono l'energia che l'atleta poi utilizza per lo sprint, per l'attività fisica, certo, in questo caso per lo sprint, insomma. Poi Nicoletta, anche qua è un discorso molto molto complesso in realtà, perché poi l'intensità e la velocità dipende anche dalla forza muscolare in un certo senso, e quindi ritornano anche in gioco il discorso dell'introito proteico. Quindi come vedi alla fine è sempre... È un gatto che si mangia la coda, possiamo dire. È un po' un mosaico complesso che va veramente composto nella maniera corretta per ottenere risultati più idonei, insomma. Dottor Ongaro, io la ringrazio davvero per questi consigli preziosi e soprattutto chiari. Grazie, grazie. Noi ci sentiamo prestissimo. Buona giornata. Grazie a voi, buona continuazione. E per oggi è tutto. Io vi saluto, come sempre vi aspetto domani. Buona giornata, buon pomeriggio da Nicoletta. Essere e benessere.